Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno e bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica. Oggi torniamo al 1987. In quell'anno io ho intervistato una delle più grandi scrittrici del mondo, l'autrice, tra gli altri, di Memorie di Adriano, uno dei miei libri preferiti. Abbiamo parlato di molte cose, naturalmente, e anche d'amore. Lei è Margherita Yourcenar. E l'amore, madame, che parte ha avuto nella sua vita? È stato importante, l'amore? L'amore è evidentemente la cosa più importante del mondo, insieme alla morte. E anche nella sua vita è stato importantissimo l'amore? Sicuramente. Sicuramente. E l'amore non è una nozione semplice. E lei come lo definirebbe l'amore? Non si può. Lei però ha detto che bisogna ridare, l'ha detto lei, bisogna ridare al piacere il senso di essere una via di accesso a Dio. Sì. Ecco, cosa voleva dire esattamente? Credo che l'Occidente abbia molto svilito l'idea del piacere, come si può vedere in molti film, in molte parole nelle canzoni, in molti luoghi di piacere. E questo perché la tradizione cristiana era ostile al piacere e l'ha molto svilito. Ed è difficile ora ridare al piacere una connotazione positiva e onorabile. Ma il 1987 tra storia e musica arriverà tra poco, insieme a Franco Schipani e Alessandra Fiori, che adesso con Alessandra Cravetto fa il punto su questo fine settimana. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Senti Cravetto, hai sentito la Yourcenar? L'amore non si può definire. Ha ragione, ha ragionissimo. Certo che ha ragione. C'è una notizia che mi ha colpito, anche se non so se quanto abbia a che fare con l'amore. Ho paura, quale sarebbe? Allora, per la prima volta da anni il numero dei matrimoni è tornato ad aumentare. Nel 2015 ci sono stati 4.500 matrimoni in più, dati Istat, non lo dico io. Scusami Cravetto, però in teoria l'amore c'entra. Poco. No, c'entra, anche se poi devo andare a spegnere il tuo entusiasmo, perché è aumentato anche il numero di separazioni e divorzi, quindi in effetti anche no. Comunque vedi, sempre nero, cioè una cosa, io noto il dato che va su dei matrimoni, tu mi noti il dato che va giù, anzi che sale anche dei divorzi, però sono direttamente collegati, perché visto che capito. È molto più facile divorziare, Ci si sposa anche molto di più. Ah, questo è l'ottimismo di oggi della Cravetto, ci si sposa di più perché è più facile divorziare. Esattamente. Beh, molto ottimista. Solo molto. Che a Roma non basta neanche quello. Perché sempre fonte Istat, il numero dei matrimoni è diminuito. E allora? Non ci provate proprio. Che vuol la dire? La negatività parte dall'inizio, cioè niente. Niente, no, noi non ci proviamo proprio. Tu potresti provare a rialzare la media. Sposandomi? Ma quanto meraviglioso ottimismo, però io ho già dato, cara. Sì, però non avevi scelto bene stavolta, te lo scelgo io. Allora, prima cosa deve essere torinese, lo ovviamente. Sai che ti stai un po' allargando? No, ma fidati, perché secondo me invece, dopo tutto questo discorso matrimoni e divorzi, i veri matrimoni che funzionano sono i matrimoni combinati. Ma ti pare? Ma figurati. Certo. Ma no. Allora, analizza la situazione. Analizziamo la situazione. Non hai nessuna responsabilità perché te l'hanno scelto i tuoi genitori, vero. La nonna, il nonno, eccetera. Vero. Per cui non puoi dire, oddio, mi sono sbagliata. Al massimo si sono sbagliati loro. E non ti dicono neanche, te l'avevo detto, no, me l'avevi esatto, detto te. Esatto, me l'avevi detto va tu. Bene, e seconda cosa, non decidi, come si fa nella maggior parte delle volte, sull'onda dell'entusiasmo che si sa... dura pochissimo. Però scusami, ma la passione mica c'è solo quella dell'inizio come passione, ci sono le passioni comuni, ci sono i progetti. Ma la passione e l'amore, guarda, non so quanto contano. Ti faccio un esempio. Ma lei è innamorato? Lo ero difficilmente a 20 anni, si immagini se all'età mia sono innamorato. Scusa. L'avvocato insegna un matrimonio che è durato anni. Ma sono torni andati sempre lì, hai solo l'avvocato in testa. E poi l'hai sentito, senza amore. Senza amore si va ovunque, lui è andato ovunque, ha avuto questo rapporto con sua moglie che è durato anni, che l'ha amato lei moltissimo. Felicissimi. E comunque ti posso dire, io sì, con l'avvocato ti avrei visto benissimo. Ok, d'accordo, Cravetto. Senti, restiamo sulle passioni che è meglio, perché c'è uno scrittore, Alessandro Lavegna, che ha scritto un libro proprio sulla riscoperta delle passioni, sì, e della fragilità. E di come il poeta, che è stato sempre considerato il simbolo del pessimismo, guardami, chi è? Chi è? Io. Sì, certo, ma oltre te c'è anche Leopardi. E insomma, giusto, c'è questo libro che è già primo in classifica, primo della Rowling, che tu sicuramente hai letto, e racconta proprio come Leopardi può addirittura salvarci la vita. Lo leggo subito. Esiste un'arte della gioia quotidiana? L'arte da imparare in questa vita non è quella di essere invincibili e perfetti, ma quella di saper essere come si è, invincibilmente fragili e imperfetti. Lo scrive Alessandro Lavegna nell'Arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita, in cui il poeta e le poesie simbolo del pessimismo diventano le guide in un viaggio attraverso le stagioni della vita. Mi sembra che stiamo dimenticando l'arte di essere felici e che quando lo siamo, per paura che lo stato di grazia sia un'illusione. Alessandro Lavegna, quindi preferiamo passare per cinici piuttosto che per illusi? Io vedo che il nostro, la forzosa separazione che questo tempo ha fatto fra il cuore e la testa ci porta ad essere o estremamente sentimentali o estremamente cinici. La grandezza di Leopardi è stato di tenere insieme la testa e il cuore, a non rinunciare a nessuna delle due, perché forse c'è sempre un po' di cuore, c'è sempre un po' di testa da trovare in ogni giornata. Dedica questo libro anche a tutti gli uomini e le donne che difendono le cose fragili, perché sanno che sono le più preziose. Quali sono le cose fragili? Questa dedica viene dalla mia esperienza di insegnante ormai da 16 anni. Le cose più belle e più preziose sono i ragazzi. Ecco, ma oggi perché è particolarmente difficile accettare la fragilità? Perché viviamo in una cultura in cui abbiamo sostituito alla grandezza della persona umana l'efficacia dei risultati. Io lo vedo benissimo anche a scuola. Siamo molto più preoccupati del programma, della cura degli aspetti burocratici. Invece al centro di ogni nostra azione ci dovrebbe essere la persona con la sua unicità e originalità. La fragilità per me, come racconto in questo libro, è quell'atteggiamento di servizio nei confronti della vita, perché tutti in questa vita siamo fragili, però di questa fragilità possiamo fare qualcosa di molto bello. E scrive anche che la diffusa infelicità del nostro tempo è causata da carenza di passioni felici. Quali sono le passioni felici? In questo libro cerco di raccontare il fatto che un ragazzo come Leopardi è stato costretto dalla fragilità del corpo e dell'esistenza che ha avuto ad aggrapparsi a quella che è stato l'unico grande fuoco e passione di un'intera esistenza, che è la sua vocazione poetica. Ciascuno deve trovare nella propria esistenza quel momento che io chiamo di rapimento all'interno del libro, che è il fatto di percepire, di essere portatori di qualche cosa di nuovo del mondo che solo noi possiamo introdurre. Per me la passione felice è entrare in classe e rimanere fedele alla vocazione di insegnante. Sotto i 24 anni, in Occidente, il suicidio è la principale causa di morte dopo gli incidenti stradali. Tra i ragazzi che vede tutti i giorni tra i banchi, ha trovato una risposta, un perché a questo problema? Come diceva un poeta del Novecento, noi viviamo nell'età dell'ansia. E quindi i ragazzi sono i primi ad agire questa ansia che li porta a percepire la vita come qualcosa in cui può essere felice solo chi è prestante, chi può avere dei risultati. Leopardi in questo può ridare, sembra paradossale, una speranza, ma è quello che vedo accadere quando lo racconto in classe, in cui mentre magari dico di una vita fragile vedo nei ragazzi accendersi negli occhi quello che Leopardi sa fare intercettando i cuori dei ragazzi, cioè dire che comunque sempre bisogna lottare per cercare la felicità. Tra le ragioni per amare Leopardi, ha detto perché a 21 anni aveva già scritto che non c'è siepe senza infinito e infinito senza siepe. Ma oggi, secondo lei, manca più la siepe o l'infinito? Oggi manca la siepe perché, siccome vogliamo tutto e subito, pretendiamo una felicità immediata, poi il paradigma tecnologico ci porta a questo. Ecco, ma in che modo e quanto pesa la tecnologia, ovvero la possibilità di avere il mondo in tasca dentro uno smartphone? interessa tantissimo, ma è anche un punto di forza, cioè questi ragazzi di oggi sanno entrare in contatto con parti di mondo che per noi arrivavano solo in tempi molto lunghi. Alessandro Lavagna, ma qual è la sua più grande fragilità? Ma la mia più grande fragilità credo che sia l'inadeguatezza di fronte appunto alle vite che mi vengono affidate. Io quando formulo l'appello e ho di fronte quei ragazzi mi dico: sarò all'altezza di queste vite? Quindi questo senso di inadeguatezza poi mi porta invece ad essere molto forte. E la più grande paura? La più grande paura direi che è quella di fare dei danni nelle vite di questi ragazzi, perché chiaramente si va a volte un po' a tentoni, quindi continuamente si sbaglia e si fallisce. Però mi sono reso conto che basta chiedere scusa. In un'epoca in cui appunto non si può mai fallire, chiedere scusa è diventato una rarità. L'arte di essere fragili come leopardi può salvarti la vita, di Alessandro Lavagna, edito da Mondadori, è anche un racconto teatrale gratuito che è appena debuttato a Milano, proseguirà a Palermo, a Torino e poi nelle maggiori città italiane. Craveto, hai sentito? Ma qual è la tua più grande fragilità? Guarda, a pensarci bene sono le vene varicose. Vabbè, ok. Facciamo così, la tua paura più grande. Che si vedano, ovviamente. Lo sai che pensavo dicessi di ingrassare? No, quella è la seconda. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Ma hai notato tra le mille fiabe che avrai sicuramente letto tutte le sere che non si parla solo di magia, di personaggi e di mondi fantastici, ma nelle fiabe si parla anche di cibo? No, il problema è un altro, è che sei a dieta letto. No, a parte quello ovviamente, che sei a dieta e vedi il cibo ovunque. Può darsi, però evidentemente non sono l'unica, perché è appena uscito un libro che si chiama Ricette da fiaba, dove sono raccolte tante ricette che prendono ispirazione dalle fiabe. Tipo, com'era il pane che Pollicino lasciava sulle erano sue molliche tracce? Però come erano era molliche, fatto? Era lievitato, come erano non era fatte lievitato? Le molliche di pane di Pollicino? Beh, brava. E tu quindi ti metti in cucina a fare le molliche di pane no, di Pollicino? No, magari io no, ma altri sì. Oppure la focaccetta che Cappuccetto Rosso ha portato alla nonna, era dolce o era salata? Ce lo chiediamo un po' tutti. Ce lo chiediamo tutti e quindi mai più senza. Mai più senza, però guarda che alla fine c'è un sottotesto perché è utilissimo, perché mentre tu sei lì che leggi la fiaba alla tua bambina e dici che brava mamma che sono, in realtà stai già pensando a cosa potresti cucinare domani. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I giovani d'oggi valgono tanto. Simone Maggi, 33 anni, ingegnere, con Riccardo Schiavotto ha fondato Lanieri.com, il primo negozio online 100% italiano dedicato alla moda maschile. Simone, buongiorno. Avete creato un sito che in pratica è un sarto online? Buongiorno a voi. Sì, in realtà abbiamo creato un sito internet che racchiude tutta l'esperienza della sartoria italiana direttamente online. Quindi il cliente può acquistare un capo su misura seguendo tutti i passaggi che farebbe dal sarto direttamente online, dalla presa di misure, selezione del prodotto, selezione delle stoffe e selezione poi delle personalizzazioni, con anche un configuratore online che è molto divertente da vedere e permette di vedere i prodotti direttamente in online. Però esistono anche degli atelier in cui il cliente può andare e toccare con mano ad esempio i tessuti, per cui siete riusciti a unire l'online con il negozio tradizionale. Esattamente, noi siamo, ci diciamo, 100% omnichannel, perché ci siamo accorti che il cliente aveva una iniziale diffidenza nell'approccio soltanto online. Allora abbiamo creato degli atelier, ad ora siamo attivi a Milano, Roma, Torino e Bologna, in Italia ne abbiamo tre all'estero, che, nei quali il cliente può farsi prendere misure, toccare con mano, sempre però con un'esperienza digitale, perché i nostri ragazzi lavorano su iPad e quindi il cliente è digitalizzato, il suo profilo è digitalizzato. Quindi diciamo la prima volta gli vengono prese le misure, gli viene fatto una specie di modello e poi su quel modello lì lui potrà decidere di farsi altri abiti. Esattamente, in autonomia può ritornare ancora negli atelier, Cioè, di fatto quello che vede il brand è un servizio, un sarto digitale, ecco, un sarto digitalizzato sempre sul servizio. Senti, voi avevate avuto come prima idea quella di partire con delle scarpe su misura, ho letto, e poi invece siete passati ai vestiti, perché? Sì, di fatto perché è stato nel nostro percorso avevamo un socio che aveva delle esperienze sulla scarpa, e allora abbiamo pensato di portare la scarpa su misura online. Poi in realtà ci siamo accorti che l'abbigliamento, perché non facciamo soltanto abiti ma anche camicie e accessori vari, l'abbigliamento su misura online poteva avere più appealing e c'era più spazio tra l'altro nel mercato, perché il Made in Italy in questo momento non era aperto, cioè il Made in Italy online su misura non esisteva. Chi è poi realmente che cuce questi abiti e dove vengono cuciti? Allora, noi abbiamo delle sartorie italiane, sparse su tutto il territorio nazionale, che hanno grandissima esperienza. Quindi quello che noi facciamo è coniugare l'esperienza di questi sarti con tutto qual è il nostro modello di business. Senti, chi ha creduto in questa idea, oltre a voi due naturalmente? Cioè, chi è che ha investito per primo? Allora, abbiamo avuto la fortuna di avere un grande investitore come la Reda di Vallemosso, quindi territorio biellese. La Reda è un'azienda che produce da 150 anni tessuti, sì, che vanno per le più grandi griffa, e ha investito in questo progetto appunto perché credeva nella digitalizzazione di questo modello. Quindi qual è stato l'investimento con cui siete partiti? Inizialmente abbiamo avuto il primo investimento da 1,5 milioni di euro, e successivamente a settembre abbiamo annunciato il nostro secondo aumento di capitale da 3 milioni, quindi in totale 4,5 milioni. 4,5 milioni che ci servono per l'espansione anche europea. Infatti siamo in una fase, come dire, di scale up, nella quale ci stiamo aprendo anche all'estero, e quindi vogliamo portare l'esperienza dei Made in Italy in tutta Europa. Senti, ma quanto costa un vestito su misura? Allora, noi partiamo da 590 euro consegnato a casa, fino ad arrivare a 1040 euro con un tessuto di RNG Zegna. E in quanto tempo riuscite a confezionarlo? Ci vorranno circa 4-5 settimane per l'abito, 3-4 per la camicia. Diciamo che il tempo è molto relativo alla qualità del prodotto, quindi tutti questi passaggi manuali, questa esperienza, occorre un determinato tempo, come la start in pratica. Giovani, più italiani, più stranieri, cioè chi è che compra un vestito su misura online? Allora, il nostro dubbio iniziale era che gli italiani avessero qualche, come dire, diffidenza. Reticenza, sì. Esatto. In realtà i nostri clienti italiani sono i più affezionati al prodotto perché, sai, noi italiani siamo anche abituati alla qualità, e vederla ad online ad un prezzo comunque scontato, perché 590 euro comunque racchiude già in sé un ottimo sconto rispetto al prodotto che noi offriamo, è stata una cosa molto, molto interessante da vedere. In realtà già ora abbiamo il 30% di ordini che provengono dall'estero. Da dove? Da tutto il mondo, dalla Canada alla Nuova Zelanda. E guarda, ti dico una cosa divertente, trovano lanieri, trovano il sito internet, poi comprano le persone digitando su Google, cercando su Google Italian suit, quindi abito italiano, perché secondo me la voglia di Made in Italy è ancora molto presente nel mondo, e il fatto che noi siamo online con un prodotto così di qualità è sicuramente interessante per loro. Senti, ma un domani pensate di allargarlo anche a vestiti su misura per donne? Ah, tante donne ce lo chiedono, non lo so, potrebbe esserci un progetto, ma per ora ci vogliamo concentrare su quello che stiamo facendo bene, quindi sull'abbigliamento maschile. Non faranno cose da donna, e va bene, ho capito, però in fondo ho pensato potrei farmi uno spezzato maschile. Staresti benissimo, un po' androgina. Androgina, proprio come il mio fisico, esattamente così. Quest'anno comunque il tailleur va, ho notato che sotto la giacca, niente. Cioè, sotto la giacca nel senso che non c'era gonna? No Ale, nel senso casomai i pantaloni, e comunque no, sotto la giacca niente. Sì. Un po' come sotto il vestito, niente. Esatto. Andiamo al cinema? I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ti è mai capitato che apri una valigia e ti esce una specie di topo con le orecchie da asino, il culo da babbuino e la faccia da tricheco? Dillo, dai. No Donatella, non direi, perché non mi è mai capitato. Ma lei è ubriaca un'altra volta? Io non sono ubriaca, perché no. Se qui c'è un'ubriaca, quella sei tu, perché io quando lavoro non bevo. Invece, secondo me, tu ti porti dietro la fiaschetta piena e dopo un po' è vuota. Va bene, senta, ma mi spiega che cosa c'entrano i topi, le valigie? È il film Ubriacona, si chiama Animali fantastici e dove trovarli, che poi è un titolo un po' strano, e parla di questo tipo che torna da un viaggio dove ha trovato tutti questi esseri strani, animali, cosi, e però se li fa scappare dentro la città di New York, California. No, no, Donatella, perché... Non ridere! No, ma non è in California, New York. Zitta. Allora, tu sei quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Hai capito? E poi c'è questo babbano, mi è venuto da ridere. Lo sento. Io la faccio ridere, sono felice. Ad andare, zitta. E poi c'è questo babbano che comincia ad andare in giro. Tu lo sai che cos'è un babbano, vero? Lo sai di sicuro? Certo, Donatella. Dicevo, ti pare che non sa che cos'è un babbano? Qui lo sanno tutti. Vabbè, Donatella, mi scusi, però chiunque abbia visto... Ecco, allora dillo tu, perché io sto coso babbano non l'avevo mai sentito prima. Ma come, Donatella, un babbano, una persona senza poteri magici? Cioè, lei vuole dirmi che non ha mai visto Harry Potter? Mi vuoi denunciare? Non l'ho visto, va bene? Non l'ho visto. E quindi, allora... scusi, quindi lei, sedicente critica cinematografica, ammette di non aver visto neanche un episodio di Harry Potter? A parte che io sono giovane, ma comunque non sono sedicenne. Sedicente, ho detto. E per l'appunto, deficiente? No, sedicente. Sedicenne. E per l'appunto io i film per sedicenne non mi piacciono, non li vedo. Va bene, Donatella, senta, ci dica se vale la pena vedere Animali fantastici e dove trovarli, ambientato nel magico mondo creato dalla Rowling. Vale la pena, perché comunque io... Poi alla fine, con tutte queste creature buffe, mi sono divertita. E poi è di fantasia, di magia, di valigie che si aprono e dentro ci sono cose strane. Di New York, California, di fumettone. Certo. Va bene, grazie Donatella. Grazie. Prego, però comunque tu non l'hai detto che cos'è il babbano, non lo sai neanche tu. No, ma Donatella, ma come l'ho detto cos'è il babbano? Zitta, babbana! E con Madonna arriva Franco Schipani. Franco, buongiorno. Ciao Ale. Ciao Franchi. Franco, ma Madonna l'hai messa per me, vero? Grazie. Open your heart, apri il tuo cuore. State parlando di divorzi, magari no? Che dici? Comunque questa è una canzone... Avanti il prossimo. Questa è una canzone dell'86, novembre 86, entrata in classifica nell'87. Grande successo internazionale di Madonna. Ma Open Your Heart, apri il tuo cuore, secondo me non avevo capito, non era per me. L'aveva dedicata a quella cinica della Cravetto che è per i matrimoni combinati, ti rendi conto? Io sono assolutamente d'accordo con i matrimoni Franco! Combinati. Ecco, ho sbagliato tutto, mi sono sposato tre volte, dovevo dare puoi fare... mia ti madre. Ti combiniamo il quarto? Il quarto lo sta già combinando mia madre. No, sarà abbiamo... l'unico che funziona. Io, Franco, sono arrivato lo sai. Già nella quarta fase, perché ricordate il rapporto con la mamma è: mia mamma sa tutto. Poi a un certo punto mia madre certe cose non le sa. Poi mia madre non capisce nulla. E la quarta? Quarta, aveva ragione mia madre. Ah, sei lì? Io sono lì, infatti ancora ci prova lei. Tu ti devi trovare una brava ragazza. Quindi te la trova lei? Assolutamente. Esatto. Mamma, trovami la quarta, per favore. Fai tu, mi affido a te. Ma la quarta nel senso d'Italia? No. Vabbè, Cravetto, quanto sei cinica. Ciao, Franco, sei pronto per questo 1987? Lo sai che mi piace da pazzi dirlo, perché io mi sento un po' come Doc. Ti senti 1987? Sì, mi sento Ritorno al futuro, capito? Che ti dico, sei pronto? Ti senti a tuo agio, ti sento a tuo agio con le notizie e con la musica, lo sento, sarà una puntata emozionante. E allora noi torniamo nel 1987 subito dopo la pubblicità. A più tardi.